c'è una radio di là. Allora, qui siamo a Montignoso. Sì, Cerreto. Cerreto. Sì. Cioè Cerreto, Montignoso è il comune. Montignoso è il comune, questa comune. È una frazione. È una frazione, Cerreto. Una frazione. Ed è il giorno 7 sì. maggio 1970, no? E siamo col compagno anarchico Giuseppe Raffaelli. Giuseppe Raffaelli, nato? Nato l'età. Sì? Nato, adesso allora diventa rosso, ma già così. Nato il 30 gennaio del 1892. Dove? Alla Foggetta, si chiamano La Foggetta, Cerreto, insomma, sì. la frazione si chiama La Foggetta. E lì, vedi, fa una specie di foggia. Esatto. E quindi c'è una casa, io sono nato sì. lì. Ho capito. E di mestiere? Di mestiere scarpellino o riquadratore, perché riquadratore è alla cava. Poi dopo all'estero ho fatto lo scarpellino, sono stato nei magazzini e via di seguito, no? Quando n'avevo sono andato a fare il manuale, ho fatto il mezzo elettricista, ho lavorato a far contadino, però all'estero non si può mica stare a cercare il mestiere se sta al ristorante, con una trentina di lire al giorno, di franchi al giorno, e allora si comincia a fare un po' così, no? Senta, lei potrebbe cantarmi in primo luogo Figli dell'Officina, sì. che è la sua canzone. Sì. Me la canti prima, sì. dopo ne parliamo. Sì. Guardi qua dentro. Figli dell'Officina, oh figli della terra, già allora s'avvicina della più grande guerra, la guerra proletaria, guerra senza frontiere, sventoleranno al vento bandiere rosse e nere, tiranni ed oppressori, lo Stato, il Papa e il Re. Non più umiliar signori, e ognuno farà da sé vuol dire l'autonomia dell'individuo, vero? Perché c'è qualcuno l'ha interpretata male, no? Ora, gli anarchici cosa vogliono? L'autonomia dell'individuo, della società, che tanto contribuisce, ma poi, è vero, è padrone della propria personalità. Dai monti e dalle valli, giù corriamo in fretta, con queste mandai calli, noi la faremo vendetta. Del popolo gli arditi, noi siamo i forti oppuri, fiorino appassiti, all'ezzo dei tuguri, tiranni ed oppressori, lo Stato, il Papa e Re, non vogliamo più signori, ma ognun farà da sé. O spose o fidanzate, il pianto vi acciglio, o madri desolate, non trattenete il figlio, ma ognun coraggio gettarsi nel mezzo della mischia, l'odio che di avvampare, udace il sol chi rischia, tiranni ed oppressori, lo Stato, il Papa e Re, non più vogliam signori, e ognun farà da sé. E poi c'è delle strofe che mi vengono più adesso, ce n'è ancora, no? Ah, ce n'è ancora. Sì, ma adesso me ne ricordo, magari gliele possiamo far avere se gli interessa, perché così c'è qualcuno che magari le sa tutte. Io mi è rimasto qualche cosa così. E ma... questa chi l'ha scritta? Ora gli dirò, ora io sapevo questo motivo qui. Ah, il motivo musicale. Lo sapevo, sì, molto dolce. Era di un'altra canzone. Ma senza dubbio, io strampellavo il mandolino, ma potevo fare quel lavoro lì. E gli dirò di più, io penso, io ho fatto il soldato in artiglieria fortezza. Ah? Ho fatto il soldato in artiglieria fortezza. E questo motivo l'ho sentito fischiettare lì. In pace non tanto, ma in guerra sì. E io penso che questo qui sia un inno d'artiglieria, penso. E di parole, penso, sono sicuro, perché dopo ho sentito da un soldato, un meridionale, che ha cantato una strofa di questo, e che faceva così. La sola che mi è rimasto. Sì. Dunque, la tesseria. Il colpo si ripete, si fa l'aggiustamento sulle file nemiche, portiamo lo sgomento. Ecco. Ora, io sapevo questo motivo qui, no? Che l'avevo sentito fischiettare sul grappa e via di seguito, no? E sono venuto, quando ho formato come si dice, a Roma, Giardini del Popolo, Mingrino, tutti quegli altri, si pensava che attaccassero, no? E allora, quando i fascisti mi hanno attaccato a massa, che non ho potuto più circolare, sono andato a trovare questo mio amico professore. Siamo stati amici fin dall'infanzia. È morto con noi tanto, tra 2 anni fa, è morto da un cancro. Era preside di Viareggio. E allora andai là su e dico... Come si chiamava questo? Del Freo Giuseppe. Del Freo Giuseppe. Del Freo. Del Freo. Del Freo. Freo. Del Freo. Del Freo. Giuseppe. Era preside di Viareggio. E allora andai di su, dico, non attaccheranno, dico, io sono un po' scettico, comunque se dovessero attaccare sarebbe bene preparare qualche cosa, gli italiani ci tengono un po' accanto. E dice, sai qualche cosa? Dico, beh. Allora c'era con la famiglia, no? Uscimmo di lì, andammo sotto un ciliegio, cioè delle ciliegie su di. Dopo gli farò vedere, si vede che lì. E c'era una piccola fontanina, dico, ci mettiamo lì. Allora, dice, questo motivo, allora c'era scenario. Dice, no, la penna, dice, no, scrive tu, scrivi dei. È naturale, no? Prima si discute, e poi detto, fai le guardine. Va bene, allora si discuteva, allora. Della penna la sapeva maneggiare meglio che me, senza dubbio, eh. Io non aggiungo una virgola né per sminuire uno nell'altro, dico quello che è. Giusto. E allora a me mi ci sarebbe voluto forse più sgangherato, naturalmente, mi sarebbe voluto chissà quanto tempo. Ora invece lui si scoteva, prima no, come si doveva, così no. E poi lui scriveva, un'oretta e mezzo, insomma, era fatto, no? E allora poi se ne fece diverse copie, allora tiravamo qua e là, eravamo tutti al bosco, c'era il tempo di cantarle. E io chi c'è di pensarmi, quando sono venuto di via, arrivo qui, che c'era ancora il fascismo. In che anno? E io sono stato... mi hanno arrestato in Francia, no? Sono stato passato 17-18 mesi al campo di Vernet, sì. Dalla Riesola, no? Dove c'era messo Petain, gli spagnoli, tutti gli insomma, non i francesi. Era un campo internazionale, no? Che ci ho dovuto lasciare la pelle. E se non ce l'ho messa, ti deve perché non fumavo. Perché non fumava? Sì, perché davano il tabacco, no? Come fuori, bisognava pagarlo. ma danno un pacchetto di tabacco grigio e io lo vendevo, ma lo vendevo mica per i denari, ho fatto anche 12 kg di patate, e sa adesso a 12 kg di patate all'epoca, ma 4 kg, 5 di farina di grano, di frumento burattata, era una cosa comune. Ho fatto 7, 8, 9 kg di mais. E insomma mi sono tirato su. Quindi quando è venuto da via, che era l'anno 1900? Io sono stato liberato dall'isola, qui quando mi hanno consegnato, no? Mi hanno consegnato all'Italia lì, mi hanno consegnato del 23, un mese di gennaio. Ah, del 23? Del 43, bestia che sono. E allora mi consegnarono all'Italia, no? Ero al campo di Ferné e venne un ordine dell'estradizione. Io avevo un po'. Sapevo su per giù cos'era la tariffa, era 5 anni, no? Per attività di volta all'estero. Ma io pensavo che ci fosse qualcosa, dato che eravamo stati assieme con Lucetti, io pensavo che mi potesse uscire fuori qualche cosa di quel genere lì, aggravarmi la posizione, no? Insomma, ero un po' inquieto. Allora mi portarono via, c'era i carabinieri, furono abbastanza gentili, poi io insomma, modestamente sono un po' infarinato, e loro mi dicevano l'Italia, l'Italia vincano la guerra, ma che cosa dite? Erano tre carabinieri francesi, dice, ma che cosa dite? Ma noi, dice, ma come lo sai? Ma sono a Tripoli, quando mi hanno portato, erano delle armate anglosassone, erano già nei dintorni di Tripoli. Questa è una questione, possiamo essere più senza dubbio, ma è una questione di 8, 10 mezzi, e dico, a noi ci sembra, anche a me, che abbiano un passo di tartaruga, ma insomma venire vengano, non è più possibile, voglio dire che la respingano via così, no. Allora, insomma, mi consegnarono a Mentone lì, c'era la polizia che doveva poi telefonare, dire dove mi dovevano portare, no? E portarono al paese d'origine. E lì c'era dentro, ho trovato diversi, l'avevano preso a Nizza, no? C'era un dottore poveretto, fragile. E sporcato da tutte le parti, sa l'italiano, Nizza italiana, Nizza, e lui sotto aveva scritto, jamais, poveraccio, hanno arrestato, non so quanto era che era dentro, aveva paura di pigliare una ventina d'anni, ho detto, mangia la brenda, dottore, quello che c'è sempre, e c'era un altro, non è che Sanacchio, non sono interessato più, e anche lui su, gli aveva dato 20 anni come spionaggio, perché gli hanno trovato un passaporto. Ha detto, ma che preoccupate, ma voi siete in delle condizioni mie, io vado in Italia e mi danno 50 e la tariffa per attività antifascista è svolta lei, ma gli americani sono a Tripoli ora, e sai, una questione di 7-8 mesi, dottore, stia tranquillo, poveraccio. Quando sono venuto via sono stato 7-8 giorni, no, per formazione, no? Mi si è buttato al collo come mia madre. Io, Raffaele, almeno voi ci temate, su, quell'altro là. Loro erano così avviliti, ma che avviliti? È una questione di 6-8 mesi, non so, se viene una bomba, questa è un'altra questione, no? Ma del resto è una cosa chiara, lampante. Questo qui l'ho detto anche quando mi hanno dato 5 anni a marcia. Mi hanno dato 5 anni, e se volevo venire a casa, sai, ormai il fascismo era... il prefetto dice... era presidente della commissione, no? E dice, ma mi pare ci sia qualche cosa che con Lima, con le sue idee, convinzioni, con quelle del Duce. Ma che cosa dice, signor presidente? Ma se noi vogliamo l'affrancamento dell'individuo della società e lui ha reggimentato le moniche, i frati, tutti, ha fatto una gabbia. E che a furia da raccontarcene, mi sembra una gabbia dei criminali. Quindi, quando lei è tornato da via, cos'è? L'ha sentito qui che la cantavano? Eh sì! Allora, sento a Carrara cantavano. E sia per l'anarchia, o vincere o morire. Non c'era l'aggiunta che hanno fatto, no? Come hanno fatto un altro ritornello anche. Invece quelli, quello penso che siano stati piuttosto i socialisti o altri, che dicevano avanti si ribelli, forti vendicator per un mondo di ribelli di pace di lavoro. Ma non c'era. Allora, dopo, da tutte le parti la cantava, adesso la suona anche la musica. L'altro giorno, il giorno del 2 maggio, non c'era, la suonava, ammazza la musica. La musica ammazza, me l'ha detto di quelli che c'erano. E allora, dato questo lavoro qui, andava da su, cominciò così, la cantava, lui scriveva, e dopo, insomma, a me mi ci sarebbe voluto di più per fare una quartina. Insomma, devo stare lì, sono un po' farinato. Io sono un autodidatta, a scuola non ci sono stato. Quindi qui voi l'avete fatta perché eravate organizzati come arditi del popolo. Come arditi del popolo. E prima mi raccontava che avete fatto, siete andati anche... Sì. Avete fatto qualcosa come sì, e siamo andati, abbiamo assaltato il teatro alle Capanne, questo. Siamo andati dentro, ma i fascisti ci abbiamo portato via della gente. È successa una sparatoria. E li portammo su al castello di Dolfi, dopo si vede qua giù un castello che mi pare che c'era già del 1000, è stato preso in mano degli uni, degli altri, dei francesi, via così, no? Adesso non c'è più nulla, voglio dire, dal punto di vista fortezza, no? Siamo al castello a Rinolfi. E quanti eravate qui come arditi del popolo? Ma quella sera che siamo scesi, eravamo una sessantina. Ah, armati? Sì, armati. Avevamo 3-4 moschetti. E eravate andati a dare l'assalto al teatro perché pensavate... No, che ci fossero i fascisti. E invece non c'era. Perché c'era uno spettacolo. È un piccolo teatrino, non è mica la Scala di... E allora invece non c'erano. È successo una sparatoria lo stesso, no? E dopo siamo andati su. E ne avevamo una decina assieme a noi. E c'era di quelli, sa, di poveri diavoli, io guarda, ma c'è verma là. E qui come arditi del popolo siete resistiti fino a quando? E finché io non sono andato via io. Cioè quando è andato via? Io sono andato via del 23, insomma, eravamo sempre su, no? Ah, su in montagna? Su in montagna. Ah, sempre su? Con l'accordo della popolazione che vi avvisava, come faceva a avvisarvi? Quando avvisare, per esempio, se vedevano uno straneo che non era di qui e io diceva c'è la volpe, o per esempio le capre pigliano verso i tecchioni, cioè dei luoghi, no? Ma di verso il pasquiglio sì. E via così. Insomma, ci siamo salvati un po'. Dagli arresti anche così. E quando invece arrivava la forza pubblica, i fascisti cosa facevano? Allora, quando arrivava, se c'era i fascisti che avvistavano, allora c'era una tromba, si suonava. C'erano fascisti, la tromba cospare, no? Un due secoli. E se c'era la forza pubblica, la tromba sola. Per regolarci, no? Da via una posizione o una maniera o a quell'altra, via così, no? Ma lei oltre questa canzone ne ha fatta qualche un'altra magari? No, fatte no. No, ne sapevo delle altre io, come gli ho detto, fin da ragazzo, da giovinetto, io avevo delle simpatie, no? Per il movimento anarchico. E si è cominciato a leggere, e a quell'epoca c'era un canzoniere. Che da una parte c'erano le parole e dall'altra c'era la musica. E io, come ti ho detto, non suonavo il mandolino, ma lo strempellavo, è il motivo, insomma, lo tiravo fuori. Per quello che su per giù gli inni, quando li cantiamo, quelli sono venuti adesso, ma se li cantiamo 5 o 6 che ci siamo ancora, sì, non di vecchi, stagionati, insomma, su per giù è cantato com'era scritto, insomma, com'era musicato, via così, no? Ma in guerra c'erano delle canzoni contro la guerra di tipo anarchica? No, io l'ho sentito lì, a tempo di guerra, lì c'era tutto, almeno dove sono stato io, intendiamoci bene. Ci possono anche essere state, ma non al mio orecchio non sono giunte. Io sono stato lì in sul Grappa, sono stato di là quando c'era il rovescio di Caporetto, e lì è una mascherata, lì i stati maggiori l'ha fatta, no? C'era 65-60 batterie lì, non ci farà nessuno. E poi quel farabutto di Cadorna diceva che sono stati i tedeschi che ha sfondato, sono stati gli scappa. Ma dire, no, farabutti, Dio. Invece non è vero, ora, non perché anche a noi essere patriotti, ma essere in una posizione buona, vecchia, che c'è di recovere via di sé, diventa una questione di legittima difesa. Se lei va via, se scappa e sorte di qui, è più facilmente che rimane bersagliato. Adesso, al di sopra di quel che può essere la questione patriottica, ma anche io avrei voluto stare lì, che qui avevamo sistemati, avevamo lo stipendio, avevamo una galleria e via di sé. E invece sta lì, si aveva perfino per segno quando attaccavano. E quando attaccavano, sorte fuori, il comandante dice: mettete in ordine il pezzo, due pezzi, boh, dice: hai ordine di sparare un colpo ogni mezz'ora, due pezzi. Dice: vicino a noi c'era una batteria da 105 venuta sulla sera, era senza bersagli, è venuta a domandare i bersagli a noi, no? Gli ovoli, come dicono in termini d'artiglieria. Lì c'era pieno di batterie, che sparava, c'era i francesi che erano sulla nostra sinistra, a Pusno, erano due o tre batterie da 155, loro sparavano come diavoli, se siamo sparati come loro, i tedeschi venivano avanti. E qui ho fatto una relazione di questo genere qui, anche il generale Sforza, che gliel'ha pubblicata perfino Umanità Nuova, gliel'ha pubblicata. Tra gli inni anarchici lei qual è che sa? Beh io so, Luganovella, lo sì, sa. Poi so quell'altro lì di Molinari, sì. So quel che dice che è francese, no? Sì. Schiavo secolar paria del selvaggio che la fame ogni orti forza l'ho presso, la sorte lieta sta nel tuo coraggio, n'ho più mendicato e n'ho più sfruttato, e pingue il fanullo non lo capirai, gavazzo col sudo frutto del tuo lavo, morte al ladron non vogliam più padron, perché non han pietà dell'umanità. Sorgiam, sorgiam, sorgiamo, e or sul lavorator che spunta già l'albor il dritto affermiamo all'esistenza e dell'avvenir, il sol risplenderà d'indipendenza, se uniti noi sarem da forti pugnerin, la vile borghesia distruggerem, corriamo a dispezzare i troni e degli altar per il grande ideal dell'anarchia. Il politicante che promette ogni ora è un vile menzogner, ma saggio di poter, e leggi sopra leggi e ti vien fino grasso per fatti affama e fatti mal sacra. E giura fedeare, non assicurar di te, spergiura il mentito, uomo senza onor. Ve ministri e senator, deputati e signor, crudeli son con noi, dell'orgia son gli eroi. Sorgion, sorgion, sorgion. Ritornello, no? Poi la terra dice, popolo oppresso da quest'orgia infame e van col suo giarlar ti devi organizzar. Sei sempre vittima di inique brame e dei mistificator chiamato malfattor. Non devi più servi, non devi più soffri, questo è il tuo ideal, lo scopo tuo final. Per te sarà l'onor, la gioia e lo splendor, se da oggi in poi combatterai con noi. Sorgio. Bene, Cristina, non l'ho mai pubblicata. E lei, no, lei dice che questo è francese. Sì. E come lo sa? Beh, lo so anche da questo lato, perché in Francia il movimento anarchico è nato prima e le tendenze si sono precisate, per non dire un'altra fase, più che prima che in Italia. E in allora, quando dice e van col suo charlar, ti devi organizzare, e c'è altri che hanno detto impugnalacciar, ma al fondo è quello che ho detto io. Così, e ora io da questo lato, e io penso che sia francese, da questo lato, perché qui di primi, insomma, essere un po' in su quel senso l'individualistico, che era Schicchi, le supergiure a tempo di Gori, quella lì era già prima di Gori, perché Gori è morto dell'11, io dell'11 queste cose qui le sapevo già. E poi dopo c'è stato uno, insomma, che scriveva molto bene, che veniva dal Partito Socialista, Giancavilla, la Grossuda. Sì. Giancavilla era uno che lui sosteneva più che altro la questione della sensibilità, della solidarietà e via di seguito, più che dell'organizzazione che ho fatto, no? Dove ha maturato, non so, il concetto ormai. C'era l'inclinazione, senza dubbio, ma trova, dove ha maturato in quell'ambiente lì il fatto di Bresci, no? Perché Bresci faceva parte del gruppo L'Aurora, no? A Paderson. Sì. Voglio dire, insomma, io da questo deduco, me l'ha mai detto nessuno. Ah, non l'ha mai detto nessuno. No, me l'ha detto. Ne ha un documento. No, ma io da come era impostato. Ma quando lei era in Francia, i compagni anarchici francesi non lo cantavano. No, io veramente in Francia non ho mai sentito. Ma allora gli potrei dire, non ho mai sentito cantare nemmeno, ma non è una ragione, nemmeno la Ravasciola. Io non ho mai sentito cantare. Poi c'è una canzone, la Ravasciola. E come fa la Ravasciola? Non lo conosco, non dire. No. E la Ravasciola è sulla storia del movimento anarchico che va, mi pare, dal 14. C'è due storie in Francia, sono uscite adesso con noi tanto. Cioè, il libro io ce l'ho, un libro voluminoso che è fatto lì da uno. Metron. Eh? Jacques Metron. No, è un altro lì, io, come si chiama? È un professore che ha detto lì la storia del movimento operaio, adesso non mi viene il nome, ma se ti interessa. Sì, la Ravasciola è una canzone. È una canzone, sì. Ma dove l'hai sentita? Beh, è in questo libro qui che gli ho detto io. C'è, sì. Il libro, ma l'aria non c'è. No, no, l'aria non c'è, no. Ecco, come prima ha detto che l'Internazionale era tradotta da... L'Internazionale de Potier, che era, sì, un compagno, sì, no? Sì. Ora, è ben diverso da quello, perché quando dice siamo noi colonie d'operai, il gran partito del lavoro. La terra ci appartiene ormai e oggiare altrove andrà il Signor. Quanti su che hanno il sangue a noi, ma un bel mattino si avverrà che fuggan corvi e da volto, ogni per sempre il sole risplenderà e la lotta finale. Tutti uniti di mano, l'internazionale sarà il genere umano. Il testo francese? Il passato sepolto giaccia, forla di roi sorge orciù. Il mondo sta per gancia fa, c'è tutto sarà chi nulla fu. Poi ce n'è un altro. Beh, com'è? E mentre invece il testo francese è diventato. No, volevo dire che c'è quello di Andrea Costa, è tutto diverso. Cioè, no? Com'è quello di Andrea Costa? Compagna, avanti il gran partito, sì, non siamo di lavoratori. Internazionale classico. Ah, ma lei diciamo dice che è di Andrea italiano. Costa? Sì. E chi gliela detto? Beh, l'ho sentito parlare, così. E poi, quando io quei libretti lì c'era, gli autori, no? Gli autori lì. Ecco, e l'Inno di Bresci lo sa? No, non credo ci sia l'Inno di Bresci, sì, io non so. No. Poi, che altre canzoni anarchiche? Questo gli volevo per dire, questo qui è nettamente anarchico, questo inno qui. Di Potier. Non v'è supremi salvatori, né Dio, né Cesare, né Tribun. Salviamo stessi o produttori, decretiamo il ben comune. Questo è anarchico veramente. Come, non è ancora l'internazionale? Eh sì, è l'internazionale, di Potier questo. Di Potier. Adesso mi vengono tutte, no? E poi sa qui si cantava molto, che la rivena attribuita a Gori, ma non era di Gori. È chiamato dallo sguardo. Dallo sguardo. Da giovane non riusciva, ma è forte. Riusciva a farlo. Quello è difficile. Era difficile. E invece non è di Gori, eh? No, è di un altro, mi sapevo anche il nome, ma adesso non è passato. Mazzoni? No, Mazzoni no, ma era un altro che era stato, so, giù. Ma adesso mi viene il nome. E allora tanti l'attribuivano a Gori, no? Ma non era di Gori, no? E quante volte l'ho cantata quella di quando eravamo su al bosco, adesso non sarebbe buono, no? È una bella canzone, quella, belle parole, bel motivo. Ma qui voi come gruppo magari ogni tanto le cantate assieme? Beh, se dà l'occasione. Sì. Col mandolino? No, il mandolino non sono più, no, ma c'è diversi giovani, sono la chitarra, allora così, no. Poi di Pietro Gori, per esempio, c'è Addio Lugano, lì poi c'è All'amor tuo fanciullo, non so se l'ha mai... È bella. Poi ce n'è un altro che l'ho sentito da uno dell'Egitto. Da uno dell'Egitto? Dell'Egitto, era un soldato, no? E suo papà era un anarco, era dovuto scappare da Livorno, no? E lui si è trovato, senti questo... Ma lui diceva che era italiano, no? Ma, come si chiamava? No, il nome me la ricordo, ma voglio dire, l'inno faceva così, quell'inno di Gori. Siamo i figli del lavoro, che lottiamo o per il pan, i superbi eroi dell'oro supplicammo ignoranza, ma ci siamo al fin levati dal selvaggio secolar e a riscossa abbiamo chiamati gli operai dai campi al mar. In alto le bandiere ed abbasso le frontiere, salutiamo l'umanità, sorgiamo contro ogni tirannia, combattiamo la borghesia, pugnan per l'anarchia. Operai di tutto il mondo che il sudore vostro abbellì, innalziamo l'inno giocondo salutando i nuovi e dal mondo viene la commozione. E dal mondo? E del mondo a voi rubato lo sapien rivendica, e dal popolo sfruttato lo sapremo ridona. Altro di Donnello, no? E questo sarebbe di Gori? Di Gori. E lo contava quel ragazzo lì, e siccome il suo papà era nato, erano scappati là, l'aveva fatto qualche cosa, no? Era venuto di là, allora l'avevo mai sentito, eh? Come egiziano, come egiziano, ma c'è dice suo male, io grosso. Ne ho chiamato qualcuno qua giù, adesso non è tanto. Sì. C'è quelli che io ho mandato a sua cosa, no? È un compagno che fa delle poesie, sì, sciolte. E una sera siamo riuniti qua giù al, come si dice, vicino al Forte dei Marmi, a Renile, mi pare che sia un onorevole socialista lì. E insomma, declamò queste poesie, no? Poi c'era la signorina che aiutava lì. E allora dopo declamai qualche poesia, io non delle mie, quelle di Gori, no? E mi fecero cantare di Molinari lì, sul confine del secolo morente. E declamai Salpando da Liverpool di Gori. E poi declamai Brindisi anarchico, sempre di Gori, insomma così, qualche poesia. Ah, quando ritorna malato e stanco dal lungo errare, ritorna a Portoferraio, così, insomma, c'era tanta, c'era fino un pittore o due di Milano quella sera lì. C'era degli studenti, c'era anche delle gente giù di qui, sono degli studenti che non hanno niente a che fare con noi, insomma. È quello che doveva passare da casa sua. Ha ragione. Qui difatti io, un canzoniere anarchico a Milano, libreria editrice sociale, quella proprio di Monanni, e credo Leda Raffanelli ha segnato sotto che è di Pietro Gori, Abbasso le frontiere, su in alto le bandiere, eccetera. Ecco, poi c'è quest'altro. Inno dei pezzenti, sorgete, sorgete, pezzenti di ignavi, oppressi dal lungo penoso lavoro, dinanzi all'immenso furore degli schiavi, non regge la stolta potenza dell'oro. Ma il motivo non lo so. E il canto dei malfattori, che era di Panizza, credo, sì, ai gridi e ai lamenti di noi plebe tradita, la Lega dei Potenti si scosse impaurita, e princi e magistrati gridarono coi signori che siamo degli arrabbiati, dei rudi. Ma mi pare io l'ho sentito in su, mi pare, adesso posso sbagliarmi, Mi pare, dai, l'ho sentito quel motivo lì, è sull'inno dei lavoratori, mi pare. Come aria. Mi pare come aria. E poi come aria, per esempio, non so se lei lo ricorda, e sulla, insomma, la parodia, no? C'era anche l'inno di Podrecca, che era una parodia dell'inno. Podrecca è finito male, ma è stata un'epoca, era una bella figura, sì, per il Vaticano. Uno metteva a repentaglio tutti, poi li sfidava in contraddittorio, non accettavano perché lui ne sapeva più che loro, senza dubbio, no? E Podrecca aveva fatto un inno anche lui che diceva, come diceva? Gli accidenti. E la scheda elettorale nelle mani dei potenti. Ma poi c'era un ritornello. Era assai piccante, perché voleva dire che pantalone cambierà barone, ma sgoba sempre. Ecco, e vabbè, Germina è sempre internazionale. Ma no, non ce l'ha quello dei Botielli dell'internazionale. Eh? Ah. Sante Caserio. Ah sì, insomma, io non so se si canta bene. Come fa? E così. Il 16 di agosto, sul far della mattina, il boi aveva disposto l'orrenda ghigliottina. Mentre Caserio dormiva ancora, non pensava al tristo errore. Perfetto, per come si menziona, il giovanetto. Ecco. Su Sacco e Vanzetti non c'era qualche cosa? Io, bene, io sì, ma quante volte c'era un tango, che ma così, un tango. Un tango. Oh, è una magnificenza. Non si ricorda qualcosa? È un che me l'hanno suonato. Mi è andato a piangere quando sono suonato. Non si ricorda niente. Dopo io, quando dentro la Costa Azzurra, è stato un periodo, mi seccavano, no? E un avvocato mi disse, un corso, non ti facevi, ora Felli, meglio se ne va. Di lui, beh, sta qui adesso, ma abbiamo venuto a prendere sul lavoro a Monte Carlo. Quando è stato il fatto Sacco e Vanzetti, no? E noi ci eravamo un po' buttati fuori e hanno scoperto un po'. Allora ci sono venuti, una volta c'era un corto, era quel che comandava la polizia scientifica di Nizza, si chiamava Curti. Poi mi incontrava sempre, come va? E sa, non è come qui, io vuol dire, ma come va? Ma io non sono mica stato alla tavola a mangiare con lei, sa? Insomma, così. E dice, se ne va a notte, dice, mi ha detto dove lavora. Lavora a Monte Carlo. Era quei giorni lì che serpeggiava, non so, che lì a Nizza avevano gettato una bomba lì. Ci fu, mi pare, un morto di feriti. Ah, cosa, no? A Nizza, a John de Ben, antico. E allora, il giorno dopo, sul lavoro, venne il poliziotto a vedere se ero sul lavoro. Insomma, tre o quattro volte così. E allora questo avvocato mi dice, sa Raffaele, è meglio che se ne vada. Sa, in Francia le cose adesso sono un po' così, dopo lei può rivenire, uno sempre che lavora. In Francia lavora, essendo attiva al lavoro, è una buona differenza, anche diverso di fronte alle autorità. E dice, via, infatti me ne andiedi. Allora andiedi a Torone, entro lì, c'erano tre ambulanti, e dice Tango, Sacco e Vanzetti. Oh, la ma era un bel motivo così. E mi pare il motivo. Mi pare che faccia così. Mi pare, fa così, le parole però me la ricordo. Nemmeno una parola, questo no. Glielo regalo. Tante grazie. Grazie. Non c'è una canzone anarchica che fa noi sacrilega turba iconoclasta in barba a tutti i vecchi bigottoni, noi grideremo la menzogna basta. L'ho sentita, ma un motivo, non lo so. No, c'è. E quest'altro, pianta il purpureo torno, no? Trono, pianta il purpureo trono sull'ossa mia schernite, ma l'avvenire io sono pensiero e dinamite. Non conosco, le parole lo sentite. E poi quell'altro, la casa è di chi l'abita, il ladro è chi l'ignora, la terra dei filosofi e di chi la lavora. Perché io penso che tutti quegli inni non sono stati musicati, no? Io ce n'era bene una trentina di quelli musicati, almeno il cantoniere che ho avuto io. Ora, potete caso che i cantonieri ci sono stati tutti, intendiamoci bene. Tarapisa. O profughi di... Lo sa questo? O profughi d'Italia, alla sventura si va a pensare in pianto né paura. La nostra patria del mondo intero, la nostra legge è la libertà, è di un sol pensiero. È di un sol pensiero la nostra patria del mondo intero, la nostra legge è la libertà. È di un sol pensiero ribelle in cuor ci sta, raminghi per le terre e per i mari. Per l'idea lasciamo i nostri cari. Noi si è ribelli, dove i moschieri di Fracelli. È passato tanti secoli, stagionato. Quando si andava via, c'era di congresso, si declamava sempre poesie di cuore. Adesso non si sente declamare una poesia, sono stato mandato all'inferno, no? Sia fuori, e chi declamava di qui, chi di là, adesso era abbiate, insomma, gloria. Ora i poeti sono tutti degli artisti, ma insomma parlava col cuore, poi tutte quelle regne fa già la mamma, la sorella, sa. Era lì quando ritorna che era malato, dice, o montagne di ferro e di granito, o verdi promontori in mezzo al mare, o braccia aperte al povero bandito, malato e stanco per il lungo errare. Che lei fa poesie, né? Non lo dico. il povero bandito che i potenti pinsero truce come un malfattore, perché sulle miserie dei sofferenti versava il miglior sangue del suo corpo. Ei corse i continenti ed oceani, i paesi del sole e quei del gel, udiva l'urlo dei dolori umani fra nembi d'ira e vortici di fiel, ma fra le pazze rabbie del ciclone, fatto di pianto, d'onte, di sospir, cantava l'inni di resurrezione, cantava i carmi sacri all'avvenir. Oggi ritorna, e sopra il golfo irato sorge verso ponente alto il fanal, torna porotto feraio relegato, il ramingo fedele all'ideale. Baciami ancora con le fresche brezze, scaldami coi tepori del tuo sol, dammi la forza delle tue fierezze e le forze ferigne del tuo sol, e tornerò più sano e più gagliardo alle riscosse dell'umanità, so che tu voglia, e questo oscuro bardo sarà il poeta della libertà.